effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto. Solo il tuo è perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, o rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stadi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E allora, amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici, questo è Radio Wombat e questo è lo spazio della stampa rassegnata. Questa settimana, tra i temi di cui ci vogliamo occupare, anche quello della situazione che stanno vivendo gli abitanti della zona di Prato Sud, delle Fontanelle, di Cafaggio, di Santa Maria, che da anni convivono con una mostruosità che tanto si è fatto per renderla occulta e normalizzarla agli occhi dei cittadini, soprattutto di quelli che non vivono quella zona di Prato e che da tempo ci devono comunque fare i conti. Non solo il passato di questa mostruosità che emette nocività nell'aria, ma anche e soprattutto preoccupa la vita di quegli abitanti, di quei cittadini, di quei lavoratori, di quelle zone, i progetti per il futuro della ditta Gida. Ma tutto quello che si rischia, tutto quello che è successo, tutto quello che potrebbe succedere e anche la volontà di resistere, di opporsi da parte degli abitanti, che si concretizzerà in una manifestazione presidio per sabato 18 maggio e che da questi microfoni ovviamente stiamo anche lanciando e spingendo affinché tutti gli amici ascoltatori e le amiche ascoltatrici la possano partecipare, tutto questo lo chiediamo a Francesco che è ai nostri microfoni. A te la parola, Francesco, raccontaci un po'. Grazie della possibilità che mi stai dando. Sono Francesco e sono il presidente del comitato Difendiamo la nostra salute, che da anni sta cercando di mettere in evidenza una situazione assurda e paradossale che stiamo vivendo noi cittadini della zona sud di Prato. In particolare mi riferisco alla situazione del dover convivere, o come diciamo noi, con morire, a stretto contatto con un impianto di depurazione acque civili ed industriali con annesso inceneritore. Questo impianto, che ovviamente per la tipologia di lavorazioni è un impianto che comprende due sistemi industriali ad alta pericolosità, quindi il depuratore a vasche aperte e l'inceneritore, posto all'interno di una comunità di migliaia di cittadini che vivono fra Fontanelle, Cafaggio, Santa Maria a Colonica, San Giorgio a Colonica e Paperino. Questa situazione è così da 40 anni. Da 40 anni ci troviamo con scuole che sono a meno di 50 metri dal confine dell'impianto, impianti sportivi che sono a meno di 40 metri dall'impianto, la falda dell'acqua potabile che è a 15 metri dall'inceneratore, fisicamente a 15 metri dall'inceneritore e dal riduttore di pressione del gas che si trova a poche decine di metri sempre dall'inceneritore. Tutta questa situazione diventa ancora più paradossale se si pensa che adesso, dovendo procedere alla realizzazione di un nuovo impianto, in quanto questo lavora in deroga ormai da molti anni, si sta pensando di riproporre nella stessa zona, che è vessata da 40 anni, non solo un nuovo inceneritore con caratteristiche completamente diverse, di potenzialità diverse dell'attuale, ma anche un biodigestore, sempre nella stessa situazione urbanistica. Tutto ciò potrebbe già sembrare sufficiente a mettere in evidenza un problema su cui dibattere, diciamo, a Prato. In realtà questo problema viene realmente occultato al punto che all'ingresso dell'impianto c'è scritto depuratore, non è neanche indicato l'inceneritore, addirittura l'inceneritore non è censito fra gli inceneritori italiani e nelle mappe del nuovo piano operativo approvato nel 2018 e adottato nel marzo del 2019 dal Comune di Prato, non è nemmeno segnalato. Quindi anche con un'operazione di censura che è a dir poco vergognosa, appunto che molte delle persone che vivono o che vengono a vivere adesso in questa zona rimangono sorprese da sapere questa situazione. La situazione diventa ancora più paradossale e sconvolgente se si pensa che in una zona che subisce questa situazione, come ho detto, da 40 anni, è stato presentato ed è in fase di approvazione di VIA anche un nuovo impianto con un nuovo inceneritore e con aggiunto un biodigestore, al punto che a questo punto nella sola considerazione degli aspetti urbanistici della faccenda passeremmo da essere a ridosso da due impianti di alta pericolosità industriale, cioè il depuratore e l'inceneritore, ad essere invece a ridosso di scuole, asili, campi sportivi, abitazioni e tutto ciò riguardante circa 15.000 persone, anche con un biodigestore e quindi con un terzo impianto di alta pericolosità industriale. E questo solo per l'aspetto urbanistico. Sull'aspetto urbanistico mi preme anche sottolineare un'altra faccenda. Il nuovo progetto, che doveva avere anche un aspetto partecipativo da parte della cittadinanza, è stato in realtà presentato con una riunione che doveva essere di coinvolgimento, ma in realtà fu di semplice presentazione, appunto, e quindi assolutamente calando dall'alto la soluzione nuova senza aver minimamente confrontato niente con gli abitanti. Nonostante che questi, grazie anche diciamo al gruppo che abbiamo creato come comitato, avessero presentato sia all'interno del documento di Prato al futuro, che è un documento su cui poi si è basata tutta la stesura del nuovo piano urbanistico di Prato, in cui si chiedeva che la partecipazione del cittadino fosse in qualche modo messa in evidenza per poter ispirare gli urbanisti che stavano realizzando il piano. In realtà questo paragrafo completamente presentato all'interno di questo documento non è stato assolutamente preso in considerazione, tant'è vero nel nuovo piano urbanistico, come ho detto, neanche viene censito nelle mappe il nuovo inceneritore. Ma al di là di questo sono state fatte le osservazioni, le vere e proprie osservazioni al piano urbanistico con ben 700 firme, e queste non sono state prese nemmeno in considerazione. Questo per voler arrivare a dire che poi si dice sempre: ma se i cittadini avessero partecipato prima, se avessero mostrato le loro problematicità, i loro problemi. In realtà è stato fatto in maniera molto evidente ed ufficiale, ma tutto ciò senza che sia stato preso in considerazione. Anzi, è stato snobbato, è stato in qualche modo anche osteggiato questo punto di vista, e diciamo la cosa più che porta rammarico e che non venga preso in considerazione la faccenda che in un momento cruciale per la discussione di questo impianto e di come debbano essere trattati i fanghi che vengono dalla depurazione delle vasche, quindi in un momento cruciale in cui l'impianto necessariamente, funzionando in deroga, deve essere per forza risistemato, non si permette il confronto per trovare la situazione che risolva non tanto il cosa fa un impianto fondamentale per Prato, cioè la depurazione delle acque, cioè la discussione viene buttata su questo argomento, ma nessuno mette in discussione questo, ma non viene dato assolutamente la possibilità di discutere del come fa questo lavoro e soprattutto di dove lo fa, considerato che la piana è completamente oberata e inquinata dal punto di vista ambientale e di inquinanti, e la zona specifica è di per sé assurda al di là di ogni altra considerazione ambientale, Rimanendo su quelle che sono iniziative che sono state portate avanti, va detto che all'interno della procedura di VIA sono state presentate delle osservazioni da parte del Comitato. Ma al di là di questo, mi preme sottolineare che la stessa ASL ha presentato delle osservazioni in cui, fra le righe, dimostra chiaramente l'assurdità del doversi concentrare con questi impianti, specialmente in queste zone. Infatti, l'ASL mette allerta del fatto che si va ad agire ed ad operare in zone complessi sensibili e che quindi richiede la lavorazione che dovrà essere messa in atto con il biodigestore, con le movimentazioni dei fanghi necessarie e con la relativa parte poi di incenerimento, appunto mette in evidenza che ci sono plessi quali case, residenze e scuole che richiedono tutta una particolare attenzione, che meglio devono ancora essere specificate all'interno del progetto, il quale in maniera del tutto arrogante non prende nemmeno in considerazione la reale situazione in cui si trova il terreno in cui dovrà essere sistemato per loro l'impianto, ma si fa richiamare dall'ASL nel dire che non è stato preso in considerazione a sufficienza questa presenza ovviamente innaturale fra cicli altamente pericolosi dal punto di vista industriali ed attività residenziali e scolastiche. Oltre a questo, l'ASL stessa all'interno dell'osservazione palesa che GIDA, quindi lo stesso committente, ha fatto degli studi sul stato sanitario della zona non troppo approfonditi. Già di per sé assurdo che lo debba fare il committente stesso, ma comunque viene rilevato che sono del tutto insufficienti. E chi vuole può benissimo andare a leggersi il documento dal sito della Regione Toscana. L'ASL, in maniera, diciamo, non posso commentare, in maniera veramente vergognosa, scusate il termine che ripeto spesso, ma non si può che dire che è vergognosa, chiede al committente stesso che questi studi vengano rifatti ed approfonditi da uno studioso anche di breve curriculum, come mettere in mano allo stesso committente l'arma di poter fare sostanzialmente ciò che vuole per dimostrare la situazione sanitaria della zona. Nonostante che siano state presentate 2000 firme ormai dal 2013, con cui cittadini in maniera precisa, con documento, protocollazione precisa all'interno del comune, chiedessero che venissero effettuati degli studi epidemiologici ufficiali da parte di ASL, in modo tale da poter certificare in maniera inequivocabile la situazione sanitaria della zona. Tutto ciò non solo non è stato fatto, non solo è stato presentato adesso all'interno della VIA in maniera inadeguata, come la stessa ASL dice, ma viene detto che deve essere rifatto lo studio anche con uno studioso di breve curriculum. Quindi già questo dovrebbe spiegare la situazione veramente strana in cui ci troviamo a dover lottare. Appunto per questo il nostro compito adesso è quello di far capire che la procedura di VIA va assolutamente bloccata per poter riprendere in mano tutta la situazione e rinquadrarla in maniera appropriata. E nel contempo deve essere sicuramente aperto un dibattito su come fare la gestione di questi rifiuti, dove farla, considerata la situazione paradossale della zona in questione, ma comunque anche la piana che non ha certamente le caratteristiche dal punto di vista ambientale per poter ricevere impianti di questo tipo. E tutto questo va fatto adesso perché è il momento perfetto per farlo, è il momento in cui i cittadini possono veramente esercitare un loro potere di confronto, perché è il momento in cui devono essere fatte le scelte, sperando appunto che non sia mai troppo tardi, come si dice. In questo caso invece è il momento giusto, ed è per questo, ringraziando chi ha collaborato con noi, come le mamme non inceneritore, come il presidio no aeroporto e no inceneritori, Medicina Democratica e anche il comitato fra due autostrade di sempre qui della zona di Prato Sud, per poter richiamare e poter fare questo presidio davanti al piazzale di Gida per dimostrare lo spirito collaborativo di cittadini che pongono all'evidenza un problema ma che poi vogliono risolverlo, no? Che vogliono che questo problema venga in qualche modo sottovalutato, vogliono che venga risolto con tutte le problematicità che ho in qualche modo sintetizzato, ma venga risolta in maniera seria, non imponendo soluzioni assurde in zone che non possono recepire assolutamente situazioni, certamente non quella dell'inceneritore che di per sé è già morta a prescindere come tecnologie, ma anche altre tecnologie magari possibili, ma che non sono adeguate comunque a zone che non possono tollerare lavorazioni industriali di alta pericolosità e di gestione di rifiuti. Altro problema da risolvere è quello delle vasche, le vasche di depurazione che sono aperte e che emettono aerosol pericolosissimi in quanto contenenti sostanze altamente tossiche e cancerogene, come dimostrato in letteratura da studi fatti su questo impianto, da studiosi che abbiamo anche contattato per poter avere ragguagli più precisi e che sono anche la causa delle maleodoranze che sono state denunciate ormai da molto tempo dalla popolazione e che sono state finalmente, dopo che in maniera provocatoria veniva sempre detto che era una situazione immaginifica, sono state invece certificate da ARPAT, la quale, rispondendo a noi come comitato ma anche a molti dei cittadini che avevano fatto lo esposti durante i periodi di cattivi odori, ha risposto stabilendo che le maleodoranze derivavano dalle vasche di Gida. Bene, questo problema di cui viene parlato da anni è totalmente lasciato lì, non viene assolutamente risolto. Si parla di copertura vasche quando sembra che dal progetto presentato in realtà si parla della copertura delle prime vasche, ma non di tutte le altre vasche a valle che seguono le prime vasche da cui arrivano i fanghi, o meglio le acque da depurare, e quindi rimane un problema del tutto aperto, anch'esso molto pericoloso, perché come ormai ho avuto modo di dire più volte, si tratta sempre di odori che vengono recepiti dovuti dagli aerosol che, al di là della problematicità, della sgradevolezza della situazione, vengono respirati e vengono respirati da chi è nelle immediate vicinanze, quindi da migliaia di residenti e fra questi anche da chi frequenta plessi sensibili come le scuole che sono a 50 metri. Di tutto ciò ancora non c'è risposta, di tutto ciò c'è una situazione di negligenza, direi, di strana negligenza, di non prendere una questione di petto, come si dice, considerato che questa problematicità noi intendendo anche per conto di tutti coloro che ci sollecitano, è portata in evidenza ormai da anni, lustri, e nonostante questo si rimanda lavorando con l'impianto in deroga, si propone soluzioni veramente vetuste e impossibili ormai da riproporre, quindi nemmeno, come si può dire, il pudore di non perseguire strade ormai obsolete come l'inceneritore, ma poi vengono riproposti impianti di alta pericolosità ugualmente, senza tener conto di tutta questa situazione. Quindi, come ho detto, ripeto, partecipiamo numerosi a questo evento di sabato 18 dalle ore 15 alle ore 17:30 davanti al piazzale di Gida, in modo tale che con il presidio sia possibile anche scambiarci informazioni, anche capire meglio, in modo tale che le persone possano in qualche modo confrontare le proprie idee e capire meglio questa situazione, anche prendendo a simbolo questo impianto, che è un impianto che lavora in maniera subdola e silenziosa e che quindi è giusto che adesso venga invece messo in risalto in tutte le sue contraddizioni. Dunque, al di là di questa sintesi estrema delle problematicità legate all'impianto di gita, cioè quelle urbanistiche, ambientali e sanitarie, che sono da me state sintetizzate veramente in poche parole e che invece si trovano in ogni minimo dettaglio all'interno di centinaia di documenti, mi preme anche di mettere una inquadratura più precisa su quella che è la conformazione sociale della società che gestisce l'impianto, cioè la GIDA SPA. Questa è composta dal Comune di Prato, dalla Consiag e dalla Confindustria Toscana Nord. Quindi una partecipata al cui interno c'è un conflitto di interessi clamoroso, cioè che dove il comune, che quindi deve fare il mestiere di depurare le acque, ma di conciliarlo con tutte le problematiche della sicurezza ambientale, sanitaria, urbanistica, però all'interno anche il ruolo di controllore e controllato. Quindi è complicato capire e credere sempre che tutto avvenga in maniera del tutto trasparente. Fatto sta che comunque vada, come già detto e come voglio ribadire, in un momento cruciale la grossa delusione è vedere la completa e sconcertante sordità di chi dovrebbe perlomeno chiamare un tavolo di verifica delle problematicità e capire ciò che è veramente ovvio, al di là della questione inceneritore che è ormai fuori dal tempo in maniera così palese e dimostrata, ma anche la questione di degli impianti alternativi che non possono trovare sicuramente luogo, come ad esempio il biodigestore, in una zona completamente inadatta all'interno di cittadine densamente abitate, come fra l'altro nella piana che risulta essere oberata dal punto di vista dei problemi ambientali e sanitari. Quindi nel ringraziare nuovamente tutti coloro che ci hanno aiutato, come dicevo, dalle mamme non inceneritore al presidio no aeroporto non inceneritori, Medicina Democratica e il Comitato Fra Due Autostrade, io spero di avere la possibilità di spiegare e confrontarmi durante il presidio di sabato 18 dalle ore 15 alle ore 17:30 presso via di Baciacavallo davanti al piazzale di Gida. Ringrazio, ti ringrazio anche te Andrea di questa opportunità e a sabato. Arriva lo stracciarolo, poi passa lo spazzino, io tutta sta monnezza come loro la respiro. La puzza non si sente perché ci hanno abituato, straborda dai secchioni perché c'è chi ha già mangiato. Un accattone un giorno ci ha trovato un bel divano, per farci quattro spicci l'ha pulito e rivenduto. Un padre di famiglia che ci ha fatto le ricerche, tra melma e copertoni ci ha trovato le coperte. Grazie a tutta sta monnezza, sui marciapiedi eppure in mezzo all'erba c'è un topo in cravatta, un ragazzino, un gatto, una vecchietta che faranno una gran festa con le rimanenze di ogni busta. L'amianto va nel vento come l'aria va ai polmoni. Le polveri sottili sciolte dentro questa brezza è morte goccia a goccia, non è più solo sporcizia. Lo schifo è nel cervello di chi stupra la natura. Parliamo tutti tanto, ma poi chi è che se ne cura? Si può differenziare passo, ma è dentro il nostro cuore il vero cambiamento. Grazie a tutta sta monnezza e grazie alla nostra ignoranza, chi si è preso una mazzetta se ne sta beato in vacanza. Ma il passato non si cambia scatenando solo una protesta. Grazie a tutta sta monnezza, mi interrogo sui mali della razza, mi risponde una vecchietta, il mondo va in rovina ma chi importa. Non ci basterà una doccia per lavarci a tutti la coscienza. E allora ringraziamo tantissimo Francesco per questo suo intervento sulla situazione di Prato Sud, ma non limitiamoci, non accontentiamoci mai ed allarghiamo, come è giusto che sia, la parola e gli interventi ad altre voci di questa situazione corale e collettiva, e lo facciamo dando la parola anche a Monica, anche ad Angelo ed anche a Sonia. Tre persone, tre compagne e compagne, tre attivisti e attiviste che nella lotta contro l'incenerimento e quindi contro il ciclo dei rifiuti che si chiude con le nocività sono impegnati da anni, ognuno in modo diverso, ma sentiamolo direttamente dalla loro viva voce. A voi la parola. Il tema che noi affrontiamo è un tema, diciamo così, che ormai sul territorio è presente da più di 40 anni, da circa 40 anni, e proprio da tanti anni sta vessando il territorio in cui si trovano le frazioni sud del comune di Prato. È un discorso che diciamo va affrontato sotto tanti punti di vista e che è stato affrontato sotto tanti punti di vista anche tramite documentazioni che sono state consegnate all'amministrazione sia comunale ma anche all'ente valutatore per la valutazione di impatto ambientale, quindi Regione Toscana. Il progetto che abbiamo diciamo, osservato e che è stato possibile diciamo, sì, analizzare tramite la documentazione che è facilmente reperibile sul sito della Regione Toscana alla sezione via, si trova un allegato 8 definito analisi delle ricadute socio-economiche del progetto sul territorio, in cui a nostro avviso sono stati analizzati soltanto aspetti positivi sul lato socio-economico del progetto proposto. E questo a noi sembra oltremodo inammissibile proprio per la mancanza di una specifica valutazione di quelle che sono le ripercussioni, a nostro avviso invece negative, che il nuovo assetto impiantistico decide avrà sul territorio circostante e in particolare su quelle che sono le frazioni di cui parlavo prima, in particolare Fontanelle, Cafaggio, Paperino, nelle immediate vicinanze, poi San Giorgio a Colonica e Santa Maria a Colonica. Infatti diciamo così, quella che è l'imponenza dei nuovi edifici, nonché quella che poi invece al lato pratico la loro funzione industriale, avrà sicuramente delle ripercussioni negative, per non dire disastrose, sul valore commerciale degli immobili, delle frazioni, ma anche su quello che poi quindi di conseguenza sarà il valore del mercato immobiliare, il quale avrà certamente, a nostro avviso, un'ulteriore contrazione rispetto a quella che è già l'attuale crisi nel settore dell'edilizia. E questo potrebbe portare, diciamo sì, nelle nostre previsioni a ridurre notevoli posti, cioè a ridurre la quantità di posti di lavoro nei settori delle imprese edili, degli artigiani e di tutto quello dell'indotto legato all'edilizia stessa. E quindi si prospetta uno scenario, lasciatemelo dire, in cui il valore degli immobili subirà un deprezzamento tale da vanificare quelli che sono stati tutti gli sforzi e sacrifici che tantissime persone della zona e non solo hanno poi fatto per l'acquisto di una casa e per garantire un futuro dignitoso ai propri figli. Quindi, dopodiché si passa a un'analisi di quelle che sono invece le conseguenze e le ricadute che potrebbe avere il nuovo assetto industriale sui terreni agricoli, i quali sicuramente saranno, tra virgolette, abbandonati da tanti di quelli che sono gli agricoltori che già oggi coltivano i terreni, ma che non sono pienamente coscienti dell'esistenza anche dell'inceneritore. E proprio perché questi terreni quindi saranno a ridosso di un inceneritore, di un impianto non più grande di quello attuale, associato a un biodigestore. E quindi la presa di coscienza di questo problema potrebbe far scomparire quella che attualmente è la vita sociale, tutte quelle forme di aggregazione che ci sono tra i piccoli agricoltori. E, dopodiché si può parlare, di un problema quindi ben più ampio, legato a quelle che sono le attività di molte aziende agricole che ci sono sul territorio, le quali stanno cercando di spostare la propria produttività su un discorso legato al biologico, e questo sarà sicuramente discutibile nel momento in cui metteranno i propri prodotti sul mercato e sul mercato si scoprirà che questi prodotti derivanti dalla coltivazione dei terreni su cui sono sorte e nate le varie verdure o ortaggi o frutta o quello che sarà, praticamente sono nate su un territorio nelle immediate vicinanze di un inceneritore. Quindi andrà capito anche come poi il mercato risponderà al momento in cui scoprirà come questi prodotti sono stati coltivati. E questo quindi è un modo per dire che non sempre anche la valutazione di impatto ambientale e quindi gli documenti ad essa annessi possono considerarsi ben fatti, proprio perché, come si ripete, quindi come riprendendo il discorso iniziale, non si può valutare solamente positivamente l'impatto socio-economico che il progetto avrà sul territorio, quindi analizzando soltanto, aumento di costi di lavoro solo da un lato, mentre per noi se ne perderebbero sicuramente tanti su altri fronti, come ho appena detto. E poi sembra, viene da se pensare, mi ricollego magari a discorsi già fatti, che questo progetto alla fine si inserisce come un elemento calato dall'alto senza nessun criterio progettuale di forma, a nostro avviso irrispettoso di quelli sono i caratteri del territorio e quindi di una qualsivoglia identità del luogo, perché di fatto l'area in cui già si trova Gida è un'isola industriale in mezzo a un parco agricolo, il cosiddetto parco agricolo della Piana, è in mezzo a campi coltivati, agli orti, è una realtà poi alla fine fortemente e densamente abitata, in cui oltre a numerosissime abitazioni ci sono asili, ci sono scuole di vario ordine e grado, ci sono dei giardini pubblici e vari altri spazi e centri di aggregazione. Quindi diventa difficile e sostenibile nuovamente pensare di realizzare un intervento così importante e invasivo anche a distanza minima da quelle che sono le fascine di tavole, quindi da quello che è un polmone per la città di Prato, ma che rappresenta tanto da un punto di vista storico, da un punto di vista di aggregazione per tutti i cittadini di Prato. Ed è per questo che il Comitato ormai da tanti anni cerca di coinvolgere e di infondere nella coscienza delle persone il problema dello smaltimento dei fanghi e di ciò che avviene attualmente all'interno dell'impianto di Gita, che sicuramente fa tanto, ma deve essere analizzato il tutto anche da un punto di vista della salute pubblica. E quindi questo è il problema del nuovo impianto, quindi è dell'incenerimento dei fanghi, di tutto, quindi poi alla fine il processo di depurazione delle acque non deve essere un problema che deve ricadere soltanto sulle spalle delle persone che abitano nella parte sud di Prato, ma deve essere una coscienza, deve essere quindi un problema sentito profondissimamente da tutti gli abitanti di Prato e provincia. È un problema fondamentale questo, non si può pensare tanto il problema è di qualcun altro e io non me ne interesso nemmeno, perché tante persone non sanno ancora che Gida non è un depuratore soltanto, ma al suo interno ha anche un inceneritore in cui per 40 anni sono stati bruciati fanghi derivanti dalla depurazione, con tutto quello che ne consegue. Io vi ringrazio, chiudo brevissimamente ringraziando nuovamente gli ascoltatori e la redazione della radio che ci ha permesso e ci ha dato uno spazio per poter parlare del problema che noi abbiamo ormai da diversi anni. E spero che questo sia. Spero che tramite anche il vostro aiuto si possa affrontare nuovamente e riuscire a impedire che la piana sia nuovamente e ulteriormente aggravata da ulteriore nocività. Grazie di nuovo, buona giornata. La costruzione di nuovi impianti nella nostra zona presenta notevoli difficoltà anche in relazione a altri impianti peraltro presenti vicinissimo. A questo proposito voglio dire che la normativa di tutela da, dei grandi rischi che è la Seveso 3, prevede che vicino a un inceneritore e anche a un biodigestore non ci possano essere né la falda, e noi abbiamo l'impianto di sollevamento falda che è falda 2 che dà da bere a mezza Prato, e in più non ci devono essere impianti che gestiscono gas, e nel nostro caso a pochi metri, circa 12 metri, si trova sia il turbo espansore cogenerativo 25.000 metri cubi l'ora di gas metano, sia il gasdotto della SNAM con il gas ad alta pressione. Lo stesso biodigestore proprio perché produce gas non dovrebbe stare vicino a un inceneritore, quindi come si capisce la situazione ambientale nella nostra zona è fortemente degradata. Nella nostra zona l'inceneritore è più di circa 40 anni che è ubicato in una zona fortemente abitata. I tumori al polmone nella zona sono più che raddoppiati, e questo è un dato che ci viene dall'Istituto Superiore di Prevenzione Oncologica. Questi tumori risultano essere strettamente connessi con l'impianto, in quanto con l'avvicinarsi all'impianto aumenta il rischio di tumori, e questo rischio risulta essere alto soprattutto in un raggio abbastanza breve, cioè 1,5 km. Per quanto riguarda le diossine, i nostri amministratori avevano aumentato i livelli massimi di diossine accettabili da 10 nanogrammi per chilogrammo a 100 nanogrammi per chilogrammo. Se ne è accorto il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, cioè il NOE, e lo ha riferito alla Camera dei Deputati. I livelli di diossine al suolo sono intorno al doppio rispetto a quelli che sono stati trovati in un'indagine fatta presso la Terra dei Fuochi. Un altro aspetto importante sono i cattivi odori. Sono presenti, secondo uno studio fatto dall'ARPAT recentemente, soprattutto a livello delle zone abitate e soprattutto della scuola. Consideriamo che rispetto a un livello massimo accettabile di 3, da noi abbiamo livelli che vanno dal 5 al 7,3, dato che si è verificato soprattutto nella scuola. Si tratta di una scuola elementare. Pensiamo che questa vicinanza è veramente altissima all'impianto, perché la distanza della scuola elementare è 59 metri. Nella nostra zona ci sono anche le vasche per la depurazione. Esse sono fortemente estese, tanto che hanno una superficie che si esprime in chilometri quadrati. Esse sono a cielo aperto, anche se dovevano essere chiuse da molti anni. Uno studio del Dipartimento di Chimica Analitica dell'Università di Firenze ha dimostrato che le sostanze cancerogene in esse contenute si condensano nei vapori che fuoriescono più di 400 volte. Questa situazione si viene a creare in una zona fortemente antropizzata, in mezzo a tre paesi, Paperino, Fontanelle e Cafaggio, che sono praticamente assolutamente a ridosso dell'impianto. Per quel che riguarda il biodigestore, esso verrà a avere una superficie molto vasta, cioè lunga 300 metri, quindi come tre campi dal calcio. In esso verranno messi a fermentare i fanghi della depurazione e molto probabilmente anche l'umido della raccolta differenziata. Quindi che cosa succede? Si produce un livello altissimo di puzzo in una situazione già in cui la situazione odorigena è fortemente compromessa. Anche questo tipo di impianto può inquinare la falda. Si possono formare dei batteri molto pericolosi, soprattutto Clostridium e Shigelle. Si produce gas metano che viene stoccato vicino all'inceneritore. Anche questo tipo di impianto viene a confliggere, secondo la Seveso 3, con gli altri impianti presenti nelle vicinanze, impianti che si trovano rispetto al perimetro dell'impianto a 8 e 12 metri. E allora andiamo a fare un aggiornamento sullo sciopero della scuola che, di cui in qualche modo avevamo parlato già a febbraio nella puntata della stampa rassegnata numero 56, per chi vuole andarsela a risentire o riascoltare per sapere un po' di più di quello di cui si dovrebbe parlare anche oggi, cioè la regionalizzazione differenziata, una delle tante insomma iniziative prese da questo governo giallo-verde che veramente poco convince, della quale avevamo appunto parlato e chi vuole se la può riascoltare, e su questa questione veramente grande, veramente ampia, c'è stato il tentativo da parte della Confederazione Cobas, soprattutto della sua componente scuola, di attivare un meccanismo di conoscenza, di controinformazione, confronto e democrazia tra i lavoratori, soprattutto del comparto scuola. Il tentativo era quello di costruire delle assemblee, degli incontri, appunto per far crescere in qualche modo la mobilitazione nel paese e arrivare poi a uno sciopero unitario. Ci sono ovviamente degli aggiornamenti, delle cose da definire, da discutere, da chiarire, e non ci sembra che ci sia persona migliore per farlo che Flavio dei Cobas della scuola Firenze, con il quale appunto avevamo fatto già la puntata di febbraio che vi ho citato e con il quale ci mettiamo in collegamento ora per sapere come sta andando, cosa davvero si è concretizzato e cosa ancora si dovrebbe concretizzare, cosa può succedere, cosa va ad accadere e quali sono le tensioni e addirittura, se possibile, gli strappi o le ricchezze di quello che era quel percorso che, di cui avevamo parlato a febbraio. Quindi la parola a Flavio per un aggiornamento su questa importante situazione. Bene, ti ringrazio. Allora, l'aggiornamento, ci eravamo lasciati a febbraio che la situazione era, possiamo dire, in evoluzione. Si era formato un tavolo che tuttora è ancora esistente con tutti i sindacati della scuola più le moltissime associazioni, centri studi che si erano espressi in maniera molto negativa sul progetto di regionalizzazione. Fatto sta che il 24 di aprile, mi sembra, il governo convoca i cinque sindacati, potremmo definirli maggiormente rappresentativi, comunque noi li chiamiamo concertativi, CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda. E per chi è nel mondo della scuola sa che lo SNALS e la Gilda sono due sindacati autonomi che si trovano solo appunto nella scuola, che però vanno, negli ultimi anni hanno formato una quintuplice alleanza appunto anche con i tre sindacati confederali. Abbiamo aspettato che venisse proclamato lo sciopero, lo sciopero è stato proclamato dai cinque, questo precedentemente a questo incontro con il governo, lo abbiamo proclamato anche noi, quindi sembrava che ci fosse un grande sciopero di tutte le sigle sindacali o comunque di gran parte di loro, comprese appunto quelle che più hanno un peso all'interno della scuola. Fatto sta che il 24 c'è questo incontro con il presidente, il premier Conte in persona, che dà una serie di assicurazioni, una serie di promesse, noi diciamo, neanche tanto precise, anche sul discorso ad esempio salariale è ridicolo, sebbene si ribadisca di nuovo che gli insegnanti italiani sono tra i peggiori pagati europei, si ribadisca, tutti dicano ciò che noi Cobas diciamo da anni, che nel corso degli ultimi 10 anni le retribuzioni sono calate del 20%, quindi noi andiamo a prendere in media il 20% in meno di quello che si guadagnava 10 anni fa. Questo lo dicono tutti, però poi alla fine quelli che vengono proposti come l'ultimo contratto, appunto fermandoci all'aspetto contrattuale, sono aumenti risibili che non pagano. Questo leggendo anche nel sito della CGIL o parlando anche all'assemblea sindacale, dove loro parlano, dicono sì, è vero che i soldi programmati non ricoprirebbero neanche l'inflazione, ma poi alla fine Il discorso qual è? Hanno firmato un'intesa e ora le assemblee, che prima erano, dovevano essere per lanciare lo sciopero, servono invece per smorzarlo, e servono per dire che l'accordo c'è stato, che questa intesa apre chissà quali altri orizzonti, che il governo si è impegnato a mantenere l'unitarietà del sistema scolastico nazionale, e una serie di vaghe raccomandazioni. Hanno improntato dei tavoli di trattativa, ma noi abbiamo deciso, non solo noi, altri sindacati della scuola, di mantenere la data del 17, perché le promesse su cui, diciamo, questa intesa in cui non viene mai nominata direttamente la parola regionalizzazione, è un'intesa che in realtà non ferma la regionalizzazione, perché subito dopo già la Lega e Salvini continuano a dire che la regionalizzazione va fatta. Si tratta, secondo noi, di un sistema che va a penalizzare le regioni più povere, che tende appunto all'autonomia differenziata, era già in qualche maniera in germe nelle leggi sulla, quando è stato cambiato il capitolo della Costituzione in cui venivano devoluti, la cosiddetta devolution, devoluta dal centro-sinistra, in cui si passavano dei poteri propri dello Stato invece alle regioni, no? Come nella sanità, come in diversi settori, e si è visto come è andata a finire: costi più alti, servizi peggiorati e privati che ci guadagnano. Così è stato un percorso anche nella scuola, che ha portato anche con la 107 all'entrata ancora più in massa dei privati nella scuola, vediamo ad esempio l'alternanza scuola-lavoro, ed ora la regionalizzazione con l'inserimento della scuola all'interno dei servizi che dovrebbero devoluti alla regione, che dà un colpo invece, noi pensiamo, proprio all'unità del sistema scolastico. Quindi manteniamo la data del 17 maggio, ci sarà un presidio sotto Montecitorio. Noi Cobas e non solo, anche l'Unicobas, l'ANIEF e altre sigle mantengono appunto la data del 17, proprio perché per noi anzi diventa un momento importante proprio per ribadire il no alla regionalizzazione. Sono stato all'assemblea sindacale in cui loro dicevano: ma se noi abbiamo solo sospeso lo sciopero, noi 5 dicevano, eventualmente se i tavoli deludono noi siamo sempre pronti a riprendere in mano lo sciopero, ma in realtà non ci sarebbero più tempi, ormai stando alla fine dell'anno scolastico, e tutto se ne riparlerebbe a settembre. Invece secondo noi la risposta va data ora, anche perché il ferro va battuto quando è caldo. La Lega vuole portare a casa questo ulteriore rafforzamento della sua posizione, quindi riteniamo appunto che è opportuno mantenere questa data. Per saperne di più sul federalismo, sul regionalismo differenziato, lunedì 13 maggio ai Ciompi, alla Casa del Popolo dei Ciompi, alle ore 21 ci sarà un dibattito con alcuni esperti, giuristi, costituzionalisti, che spiegheranno appunto come mai questo regionalismo è così deleterio. In questo, ecco, di nuovo, in questo, diciamo, in questa serata hanno aderito diverse associazioni o sindacati, tra cui anche noi, ma anche appunto altri sindacati che, come dicevo prima, hanno revocato lo sciopero. Però è comunque un momento in cui si approfondiranno le tematiche rispetto al regionalismo. Quindi per chi ne vuole sapere di più, invito a partecipare il 13 a Piazza dei Ciompi a questa assemblea informativa sul regionalismo differenziato, e poi invito tutti, comunque, gli insegnanti, coloro che sono appunto i docenti, a scioperare il 17 e eventualmente a venire a Roma il 17 maggio, sciopero generale della scuola.